questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buongiorno e bentornati a Radio Tube. È bello dire buongiorno perché noi buongiorno eravamo e buona abituati, domenica soprattutto. Ma certo, eravamo abituati alla sera, al sabato sera. Adesso abbiamo deciso che basta con le repliche. Abbiamo anche deciso che tu stai per il sabato e io sto per la domenica per rispettare la par condicio. Mamma mia, parliamo perché, di politica oggi, no? No, no, ma che di politica? Perché la domenica è mainstream, sì. Il sabato meno. Il sabato del villaggio. Ma secondo te la Pasqua invece? No, appunto. Cioè, per il Natale forse è più mainstream. Il Natale è molto più mainstream. Ci sono delle feste che sono un po', come possiamo dire, le feste... i pulcini neri delle feste. Sì, la Pasqua. Quelle strane. Poi... poi dipende da come cade. Ecco, c'è un... Pasqua dipende da come cade. Se cade troppo avanti non è mainstream. Sì, perché poi mi si unisce troppo coi ponti. Esatto, è tutto. Tu poi vuoi lavorare tutti i ponti, quindi sì, io lavoro quel sempre. Problema lì. Allora, sì. Visto che RadioTube è il programma settimanale che vi fa ascoltare, anzi rivedere alla radio, l'imperdibile, l'imperdibilissimo e anche il perdibile, e tutto quello di cui parla la rete, noi parliamo di cose mainstream. Già nella puntata di ieri vi abbiamo proposto almeno la prima parte di questo video di questo youtuber, che a me ha divertito molto questo video. Sì, no, ma è bravo, è bravo, te l'ho detto. È un po' svagato, lui è diverso, arriva... Ci sono altri youtuber più di impatto immediato, come appunto The Pills, l'abbiamo detto anche ieri, che ragazzi che sono arrivati sulla televisione, quella importantissima, la Rai, il servizio pubblico. Lui è un po' più svagato, però ha un'ironia, un racconto dell'esistenza più leggero, ma che secondo me sul lungo andare può essere un diesel. E sentiamo cosa dice Enrico 0DX della Pasqua. Che schifo! Cosa? Che schifo la Pasqua! Non ti piacciono le uova? Non mi piace la Pasqua. Perché? È una festa sfigata. È pur sempre una festa. È così poco mainstream. Mainstream? Vuoi dire come il Natale? Il Natale è mainstream, la Pasqua no. Perché Ferragosto è mainstream? Che c'entra Ferragosto? È in mezzo alle vacanze estive. Le vacanze di Pasqua durano poco, te le riempiono di lezione. Io non l'ho mai fatto. E tutto quel cioccolato? Il cioccolato è il cioccolato. Fondente o al latte? Al latte. Al latte, certo. Quanti anni hai? Che ne so, non si chiede l'età a una signora. E comunque a me piace pralinato. Per non parlare delle sorprese. A tutti piacciono le sorprese. Mi spieghi come cavolo fanno a inserire un peluche in un uovo di Pasqua senza romperlo? Come fai a non farti venire i pensieri? Ma appunto, ma come fai a non farti venire i pensieri? Poi pensieri pralinati. Questa lotta tra chi, ogni volta che dici mi piace il cioccolato al latte, se scrivi su Twitter mi piace, arrivano tutti. No, solo il cioccolato fondente 150%, non capisci niente. Ma a me piace. Fra un po' arriviamo al caffè nello zucchero. Sì, il caffè nello zucchero. Lo zucchero nel caffè, sì o no? Ma sai come finisce questa no, pasta perché mainstream? Sentiamolo. Eh sì, perché ieri abbiamo solo fatto ascoltare questo pezzettino, infatti. Ma ascoltiamo come finisce questo video secondo cui la Pasqua non è affatto mainstream. Eccola qua. Tutti quei poveri agnellini. Ammazzano miliardi di animali tutto l'anno e tu ti preoccupi degli agnelli. Ma che c'entra? L'agnello è carino. Poi che ne so, nemmeno mi piace. Non ti piace l'agnello? No, mi fa schifo. Tutto quel grasso e poi quando è cotto puzza come mio nonno. E allora di che ti lamenti? Ma guarda, non è che se fa schifo l'agnello a me dobbiamo sterminarli tutti. E poi scusa, tuo nonno puzzava? No, è che tutte le mattine si bruciava la barba se la tagliava così. Era pazzo? No, non sapeva dei rasoi. Comunque, il punto è che la Pasqua non mi va. Tutte queste feste commerciali. Commerciali? È assurdo, non ti piace la Pasqua ma ti piace il Ferragosto. A Ferragosto mica si festeggia Cristo che cammina sul mare? Possibile che non vedi le sfumature? Sei così ottuso. Ottuso, tu dai dell'ottuso a me. Sono quelli come te che ci hanno dato i talent show. Adesso è colpa mia se fanno i talent show. E i programmi di cucina. E Michael Bay. Ma quanto sei petulante, ma c'è una cosa che ti piace? Il Winner Taco. E perché ti piace? Sentiamo. Non lo so, la cialda che avvolge la panna, che nasconde inaspettate sorprese al caramello. È una metafora della vita. Non lo sai. Ok, non lo so, ma almeno è mainstream. Beh, allora, Cosa dai, Ferragosto, ha ragione. Io adoro, intanto quando dice è out. Sono quelli come te che hanno fatto diventare famosi i talent show, i programmi di cucina Michael Bay. Perché alla fine anche in politica poi la risposta è sempre questa. Ah, sono quelli come te che hanno. Sì. Poi questa storia al mondo, del gelato Algida, per cui, non so se sai, c'è stata una petizione in rete. Per ottenere cosa? Era un gelato che non esisteva più. Ah, e hanno fatto una richiesta. Petizione in rete finché non è tornato quel gelato. Ah, povere aziende. Ecco. Costrette a inseguire le ondate. Io non ho più da anni lo shampoo alla mela verde e rivoglio lo shampoo. Il Pino Silvestre è tornato per quello o è stato deciso in altro modo? Guarda, secondo me ormai il problema è che... anche perché la rete purtroppo ogni tanto vive di revival, perché ha voglia di ricordare, no? Un'altra delle cose, oltre al tremendo che dicevamo ieri, che va in rete, si porta bene il revival. E ogni tanto voi tutti influencer della rete, vi mettete d'accordo. E decidete che dovete far tornare una cosa di moda tavolino. E stressiamo anche le povere aziende che devono rifarti. Sì, esatto, bisogna vedere. Mainstream. Bisogna ricordarsi che l'onda poi declina. Tutto ciò che va su prima o poi viene giù. Me l'ha detto una volta un analista importantissimo che si chiama Mobius di finanza. Beh, io adesso riferendosi anche un po' alla paura. Borsa. Io ho anche un po' paura. Lui, dopo tra l'altro, fece il parallelo dicendo la borsa è come il sesso. Per ma la frase può, che ho detto prima. Ma si può dire. C'è il traffico che ci salva. No, cominciava a farsi interessante proprio adesso che dobbiamo mandare il traffico. Benissimo. Allora, io mi faccio spiegare durante la pausa i dettagli di questa affermazione. Purtroppo, probabilmente non ve li potrò riferire. Vediamo dopo la pausa. Ma no, è semplice. Nella quale parleremo con un cantante italiano che a me è piaciuto molto, con un disco bellissimo. Radio Tube. E beh, Daniele me l'ha spiegato durante la pausa, però è effettivamente un po' estrema questa cosa della borsa come il sesso. No, non si può dire a la microfoni borsa, accesi. Ciò che va su prima o poi viene giù e poi torna su, basta. È facile la borsa. Ma rispetta la par condicio questa cosa? Ma sì, rispetta, perché assolutamente. Perché dici un po' su, un po' va bene. Non addentriamoci. È da ieri, sarà la primavera, Marta, ma è da ieri che proprio questi argomenti... Sì, parliamo di musica. Sì, parliamo di musica, fammi scoprire delle cose belle. Parliamo di Museica, che bello questo Museica titolo. Inventato? Ma è il titolo del nuovo album di Caparezza. Ah. Io lo trovo un titolo geniale. È un hashtag. Altro che... Anche se lui... Vabbè, adesso ascoltiamo cosa ha detto. L'hai intervistato? Ma certo che l'ho intervistato. Ma tutti li intervisti. Apposta per te. Grazie. Per te. Perché ci sono due brani in questo Museica che riguardano anche la rete. Allora, la premessa è che il titolo Museica deriva dal fatto che ogni brano è ispirato a un'opera d'arte e quindi è un viaggio nel suo Mussorgsky. Museo mentale. Beh, mica tipo. Male, eh? Mica male. Mica male, no. È un ragazzo intelligente, Michele Caparezza. Cosa è successo però? Che lui ha un rapporto un po' difficile con la rete, anche se, adesso ce lo spiegherà, sta un po' imparando. Ha soprattutto dedicato un brano in questo Museica a un aspetto che noi in RadioTube affrontiamo da settimane, mesi. Cioè la cattiveria in rete. Ah sì, se il web è cattivo no. Allora, se noi siamo più cattivi in rete o nella realtà. Soprattutto si intitola Sfogati. Sfogati. Perché anche lui questo dice, è un hashtag, mica male. Sfogati. Perché lui dice, tutti quelli che ascoltano un disco, un film, vedono un film, la prima devono cosa dire, che fanno è dire. Parlarne male. Ed è verissimo, Caparezza ha ragione, io ti farei ascoltare, questa volta non vedere perché non è un video ma è un audio, un pezzettino di Sfogati e poi insomma sentiamo cosa ne pensa Caparezza di quello che succede Bello. In rete. Un giorno uno mi disse non mi piacciono le tue canzoni, dico guarda mi hai dato lo stesso fastidio come se mi avessi detto che non ti piace la mia macchina. Ho notato che quando si parla di cantanti certa gente dovrebbe prendersi dei calmanti. Mattatoi di furia iconoclasta insultano e basta, diventano mattatori. Un insulto a Vittorio Gassman e c'è sempre qualcuno più artista di qualcun altro, più vero, più puro, più a sinistra di qualcun altro. Mettono tutti a nudo come freak al parco Lambro. Abbaiano quando c'è uno show Braccobaldo. Non è male sto testo. Cioè, all'inizio era Vasco? All'inizio era Vasco perché lui dice io ogni volta mi ricordo di questa frase che ha detto Vasco Rossi. Se tu dici che il mio disco non ti è piaciuto, mi colpisce nell'intimo come se mi avessi detto che non ti piace la mia macchina. Devo dire che in questo Vasco forse è più... No, lui, Michele Caparezza dice: sto imparando a capire che, insomma, c'è questo aspetto della cattiveria in rete, che è una cosa che mi colpiva molto prima, adesso sto cercando di essere un po' più tranquillo. E sai che artista ha scelto per raffigurare questo aspetto? Artista nel senso figurativo del termine? Sì, sì, ha scelto Antonio Ligabue. Ah. Ma che rapporto ha Michele Salvemini in arte Caparezza con la rete? Gliel'abbiamo chiesto perché è molto interessante. Sto facendo pace con i social. È molto difficile, ma sto facendo pace con i social. Fermo restando che c'è un grosso utilizzo di Facebook che non è conforme al mio modo di interpretare la socialità. Cioè, voglio dire, se ci sono 5 persone sedute su un divano e ognuno guarda il suo telefono, cioè non stanno socializzando. E quindi io sono più attaccato a questo, però io sono il rapper senza tatuaggi, quello che appunto non ha osato non avere un Facebook fino a qualche anno fa. Però ecco, fanno parte del linguaggio oggi. Allora, molto cauto, eh? Beh, sì, sto facendo pace, è una buona sintesi, ma sì, tutti noi sì. Stiamo facendo pace tutti i giorni con sì, i perché social, forse i ragazzi più giovani, i ragazzini proprio, che ci sono nati, non avranno neanche il tempo di elaborarlo, questo passaggio. Verissimo quando dice 5 persone sedute sul divano che guardano un telefono non è socializzare. Dall'altra parte, da solo... su un divano con un telefono puoi socializzare con migliaia di persone e ritrovare bello. I compagni degli elementari. Quindi la socializzazione cambia, non è detto che sia in meno, in diverso. Intanto, momento coming out, anch'io non ho neanche un tatuaggio, quindi però ah non no, faccio rap. Assolutamente quindi, neanche io. No, perché sono troppo mainstream. Lui ha detto un'altra cosa divertente, cioè non avevo neanche un Facebook. Adesso fino a un po' di anni fa. Fino a un po' di anni fa, perché adesso un po' gli tocca, sai? Sembro veramente un impedito, sto tentando di usare anche Twitter senza riuscire a capire granché, però vorrei che mi fosse perdonato questo, perché io l'ascia di guerra l'ho sepolta. Però vorrei che ci fossero persone che comprendano la mia totale incapacità di rapportarmi con questo mondo. Partiamo dal presupposto che molte cose le conosciamo attraverso i social. Purtroppo tante di quelle cose sono cose di cui non abbiamo bisogno. Cioè, invettive, dirette non so a chi, opinioni su tutto, ironie sempre, barzellette ovunque. Non lo so. Io preferisco fare altro, non so che dirti. Io quando sono a casa ho voglia di uscire. Vedi, le invettive, questa cosa l'ha colpito, eh? Lo colpisce. Sì, non bisogna avere ansia di prestazioni. Sui social network, se fossimo tutti come siamo nella realtà, chi è cattivo è cattivo, chi è buono, andiamoci tutti, lo dico sempre, è una specie di mio mantra. Faccio io un poi, po' sì. In questo, se ci andiamo tutti vengono tutti gli anticorpi, anche il tono della cattiveria, anche le invidie. Il problema sì è quello dell'invidia, soprattutto per chi è famoso. È chiaro che Facebook o Twitter ti danno la sensazione di essere un po' famoso senza esserlo, tu invidi chi è famoso e ha successo e quindi lo attacchi. Però volevo farti notare quando lui dice ormai avere un sito non serve più, cioè avere un sito e basta senza i social, no. Dunque, allora, la scommessa di tutti i social, ma di tutti gli operatori della rete, è costringerti a stare solo dentro di loro. Quindi Facebook sta facendo di tutto per diventare motore di ricerca, banca, ti dà i giochi, ti fa sentire la musica, ti fa mostrare via. Vuole che tu entri lì e non vai più su Google, che è l'obiettivo principale. Sì, stai dentro. Il concetto è che fra un po' però bisognerà mettere un po' di ordine. Se uno afferma la propria identità forte, la collega a tutti i social e, come dire, non... crea una community attorno a questa identità, non è detto che diventi inutile, anzi, lo dimostra per esempio il fatto che comunque poi tu l'informazione la vai a ricercare sui siti che hanno conquistato con la propria identità una certa autorevolezza. E queste sono tutte riflessioni che noi facciamo dall'alto ai noi della nostra maturità. Ci sono i ragazzi di 15 anni che queste riflessioni non se le fanno perché vivono dentro a queste cose. E, ma guarda un po', Michele Salvemini in arte Caparezza, classe 1973, ha dedicato loro una... È una canzone in cui si chiede chi è il pazzo. Van Gogh, perché appunto museica, ogni opera, ogni traccia è un'opera d'arte, o siete pazzi voi ragazzini che fate sta vita? Sentiamo in Mica Van Gogh Caparezza cosa ci dice. Prima di dare del pazzo a Van Gogh, sappi che lui è terrazzo, tu ground floor. Prima di dire che era fuori di senno, fammi un disegno con fogli di carta e crayon. Van Gogh, mica quel tizio là, ma uno che ha la petà, libri di Emil Zola, Shakespeare nelle corde, Dickens nelle corde, tu leggi manuali di DVD recorder, lui 300 lettere, letteratura fine, tu 160 caratteri, due faccine. Cioè, allora, lui 300 lettere, letteratura fine, tu 160 caratteri e due faccine. Intanto 160 caratteri sì. E l'SMS, quindi sì. Lui ancora... non parla dei 140 di Twitter, ma l'SMS praticamente della pergamena. Beh, diciamo che ormai l'SMS ha solo carattere di urgenza. Tornando, però per me è più tornando. mainstream come l'uovo di Pasqua. Perché allora... bisogna mettere ordine, dicevi. No, è interessante questa cosa, eh? Lui 300 lettere, letteratura fine, tu 160 caratteri, due faccine, e poi è anche più estremo, perché London, Paris, Anvers, tu Megastore, Iper, Multiplex, con queste rime alla Caparezza che mi piacciono tantissimo. Ricorda un po' il bel romanzo di Michele Serra sugli sdraiati. Com'è questo rapporto con i ragazzi di Caparezza? No, io guardo e le frequento. Per la posizione privilegiata in cui sono, molto spesso io mi rapporto con persone estremamente giovani che suonano, cantano, e parlo molto con quelle che vengono identificate come nuove generazioni. Non ci trovo tutto questo distacco, il distacco è semplicemente nelle opportunità. Magari io per arrivare, se parlo della musica, per arrivare a fare un demo dovevo faticare molto perché non c'erano i computer con i sequencer, bisognava trovare lo studio di registrazione o comprarsi il Fostex, quello con la cassetta a 4 tracce, insomma era un po' diverso da questo punto di vista. Adesso è più veloce la fruizione di tutto, però penso che il famoso Teen Spirit sia ancora vivo e io lo benedico, perché molti di noi, superata una certa età, finiscono di vivere. Tu fai ancora il tuffo nella piscina e trovi il dollaro. Io faccio ancora il tuffo nella piscina e trovo il dollaro e mi piace sorprendermi, e le sorprese arrivano da chi ha 20 anni. Sono sempre loro in grado di sorprenderti, c'è poco da fare. Beh, la citazione dei Nirvana non me la potevo risparmiare, perché lui mi parla di Teen Spirit, la copertina, no, del bimbo che nuota nella piscina e prende la banconota. Perché lui in questo album c'è anche una traccia che si chiama Cover, perché lui va a ripescare tutte le grandi copertine dei dischi che hanno fatto la sua vita. Però che bello quando dice da quelli di 20 anni che ti sorprendi, che sanno sorprendere. Sono d'accordo, anche noi che ce li abbiamo un paio di volte o quasi. Ma no, ma non conta, avere 20 anni e avere la forza di sorprendere, appunto. Straordinario. E poi devo dire che mi piace questa sua circospezione, sì, ma curiosità. Ma guarda che comunque essere fuori da questo mondo è un modo anche per esserci dentro, eh? Cioè è una forma di atteggiamento. Io per esempio in questa trasmissione faccio un po' quello che non ci capisce più niente, no? Tu sai tutto, è un nostro modo di essere nella vita come lì dentro. Mi piace molto. E comunque è stato bello, perché io ho twittato dalla conferenza stampa di Caparezza, lui si è guardato con calma tutti i tweet e la sera poi retweetava. Ti ha risposto? No, poi lui retweetava, però mi ha detto guarda, lo faccio con calma, perché poi me li voglio guardare con calma. Giusto così. Si può fare la dieta dei social. Ma fantastico. Staccarlo per un po'. Fantastico, vabbè. Facciamo che noi possiamo fare la dieta dei social per qualche ora, perché adesso finisce il nostro RadioTube, ci possiamo concedere un po' di domenica pomeriggio di relax. Invece con RadioTube diamo l'appuntamento a sabato prossimo alle 18 per la puntata del sabato, a sempre in rete con il nostro podcast su radio24.it, i nostri account di Twitter. Vai. Di Bellasio, et Marta Cagnola, cancelletto RadioTube. Quanto tempo è passato da quando ti confondevi e sbagliavi gli account? Invece adesso non ti colgo più incastrato. Oddio, mi fai diventare rosso. Sono troppo bravo. Ringraziamo anche Filippo Aureggi in regia e ci ritroviamo con RadioTube sabato prossimo. Ciao.